canale 10. Metti canale 10, c'è qualcuno? Attento Claudio, ci sei? CQ canale 10, CQ, c'è qualcuno all'ascolto? CQ canale 10, CQ, c'è qualcuno che ascolta? Attento Marco, ci sei Marco in ascolto? Tutti quanti spariti siete. CQ canale 10, CQ canale 10. CQ canale 10. CQ 10. Regalo un baracchino. Se sei interessato, telefonami. Giulio Dollaro fermato. Annuncio regalo. Regalo un baracchino. Se sei interessato, telefonami. Annuncio il regalo di un baracchino. Se sei interessato, telefonami. C'è qualcuno sul canale? Ma è che canale 10, c'è qualcuno che ascolta? CQ canale 10, c'è qualcuno che ascolta? CQ canale 10. Voglio regalare un baracchino. Se sei interessato, telefonami.